Ma che farai con tanti panni addosso? Che par abbia spogliata da bottega d'un rigattiere. Oh, frate mio, stamante io non ho fatto come te, che ieri sera facevi intento chiasso e te la sei dormita come un tasso. Oh. Io non ho chiuso un occhio e innanzigiorno ho tanto di qua e di là girato. E fatto che se non attraversaci il demonio spero di frastornare il matrimonio. Che dorme, lo sai, non piglia pesci. Basta, sei una gran donna se riesci. Credi tu che Filippo mi possa ravvisare? Nemmen per ombra. Giusto bene. D'incanto, in questi panni sembri proprio una vecchia d'80 anni. E col altro vestito? In quello poi, il voler far da uomo, una donna mi pare un po' ridicolo. E ti potria mancare qualche amminicolo. Chietati, sento gente al concertare.